ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo 14. Il sequestro dell'assistito. Con fragor triste scrosciava la pioggia di estate sul selciato, mentre due larghi rigagnoli giallastri discendevano ai lati della via Nardones e nell'aria era quell'odor nauseante e solforoso dei temporali di agosto. In piazza San Ferdinando le carrozze da nolo, dal soffietto levato, erano tutte lucide di pioggia, stillanti acqua da tutte le parti. Bagnati sino alle ossa, grondavano di pioggia i lunghi e madri cavalli dalla testa abbassata, raggricchiati, col cappelluccio sformato sugli occhi, col capo abbassato sul petto, con le mani convulsamente ficcate nelle tasche dello sdrucito cappotto, i cocchieri ricevevano pazientemente l'ondata che cadeva dal cielo. E tutto era triste intorno. Il Palazzo Reale, la piazza, il porticato e la chiesa di San Francesco di Paola, la prefettura, il comando di piazza e Gran Caffè, tutto triste, malgrado la grandezza e i tanti lumi accesi dietro i cristalli. Triste anche la maestosa mole del Teatro San Carlo, tutto il notturno paesaggio avvolto nella fragorosa burrasca che non aveva posa, traendo dalla stanchezza nuova forza a batter case, strade e uomini. I passanti erano rari e apparivano come ombre di creature infelici, sotto gli ombrelli sgocciolanti di pioggia, oppure rasentavano le muraglie, non avendo l'ombrello, col bavero alzato e il cappello molle fradicio di acqua. Qualche raro viandante scantonava da Toledo a via Nardones, una via abbastanza larga posta nel miglior centro della città, e intanto conservante un aspetto equivoco, quasi di strada male abitata e mal sicura. Una via senza tetraggine, ma aspirante la diffidenza delle chiuse finestre, dei balconi scarsamente illuminati, dei portoncini socchiusi, dove lo sguardo si perde in un buio androne. Ad un certo punto, una donna appena coperta da uno scialle nero, sul vestito di lanetta gialla e sulla camiciuola bianca, scantonò da Toledo salendo lentamente la via Nardones, tenendo le due cocche del fazzoletto che le copriva il capo, strette fra i denti e riparandosi dalla pioggia sotto un ombrello piccolo piccolo. Ella andava con precauzione, levando i passi in modo da bagnare il meno possibile le sue scarpette di pelle lucida e mostrando le calzette rosse di cotone. Quando passò sotto un lampione dalla luce rossiccia, levò il capo e apparve il volto, oramai stanco e triste, sotto il belletto grossolano di Maddalena, la infelice sorella di Annarella e di Carmela. Ella arrivò innanzi alla equivoca bottega dalle tendine rossastre e si fermò davanti ai cristalli, come se tentasse di vedere una persona, un fatto che accadesse là dentro senza osare di aprire. Ma salvo il movimento di certe ombre nere incappellate, non si distingueva nulla, ed ella, dopo aver esitato un bel pezzo, si decise a mettere la mano sulla maniglia e a schiudere uno sportello della bottega. Introdusse la testa dallo spiraglio timidamente e chiamò: «Raffaele? Raffaele? Ora vengo!» rispose la voce del giovanotto camorrista di dentro con una lieve intonazione di impazienza. Subito ella richiuse e sotto la pioggia, pazientemente, si mise ad aspettare. Qualche uomo passava e le gittava una strana occhiata, eccitato da quell'incontro, in quella bizzarra temperatura burrascosa, in quell'ora della notte che si avanzava in quella via deserta. Ma ella chinava gli occhi, quasi si vergognasse, e sogguardava l'estremità di via Nardones per vedere chi ne spuntasse, temendo continuamente di essere sorpresa. Ad un tratto trasalì. Due popolani si avvicinavano, risalendo la via Nardones, senza discorrere fra loro, prendendosi sulle spalle tutta la pioggia. Un vecchio sciancato, trascinante la gobba e la gamba più lunga, il lustrino Michele, senza la sua cassetta dove lustrava le scarpe, e un altro magro, pallido, con certi occhi ardenti nelle occhiaie incavate, Gaetano, il tagliatore di guanti. Nel riconoscere il marito di sua sorella Annarella, suo cognato, Maddalena fu presa da un fremito di paura, si strinse al muro, come se volesse rientrarvi, abbassò l'ombrello e pregò mentalmente perché Gaetano non la riconoscesse, con le labbra che non arrivavano a balbettare le parole della preghiera. Fremeva. fremeva temendo che la bottega si aprisse in quel momento e che Gaetano riconoscesse colui che usciva di là dentro. Ma Gaetano, il tagliatore di guanti, ricevendo sul capo l'ondata della pioggia, non badava a coloro che si trovavano nella strada, fortunatamente per Maddalena, né la porta della bottega si schiuse quando egli passava. Anzi, i due popolani scomparvero, uno dopo l'altro, in un portoncino lontano una quarantina di passi, dove anche qualche altro uomo prima di loro era sparito. Ma sotto il suo rossetto, Maddalena si sentiva le guance gelide dalla paura e riaprì la porta della bottega pregando, invocando sottovoce «Raffaele! Raffaele!» «Vengo, vengo!» rispose il giovanotto seccato, senza nemmeno accorgersi che la povera donna aspettava da tempo sotto la pioggia, nella notte, nella via spazzata dal vento. Ella sospirò profondamente e gli occhi, che non avevano più bisogno di bistro, tanto li sottolineava un'ombra nera di stanchezza e di dolore, si riempirono di lacrime. La pioggia adesso aveva insuppato l'ombrello di cotone verdastro e scendeva sul capo di Maddalena. Le immollava i neri capelli lucidi e le rigava la faccia e il collo, un'acqua tiepida, come se fosse di lacrime. Ma ella non sentiva neppure quello scorrere della pioggia fatta insensibile e non vide le altre tre o quattro persone che, sbucando da Toledo, risalendo verso l'altitudine di via Nardones, scomparvero nel portoncino dove si erano cacciati Michele il lustrino e Gaetano il tagliatore di guanti. Di dentro la bottega le ombre si agitarono, mentre un fragore di voci che discutevano si levava, ed ella tese l'orecchio ansiosamente, sentendo che Raffaele bestemmiava e minacciava. Ah, non potette resistere al tumulto delle voci irose e schiuse nuovamente la porta, gridando, supplicando, «Raffaele! Raffaele!» Ancora altre parole colleriche scoppiarono, da una parte e dall'altra, fra coloro che bevevano e giocavano in quell'osco caffettuccio. E Raffaele, messosi in capo il cappello con un pugno, uscì dalla bottega come respinto da chi vi si trovava. Trovandosi avanti quella figura umile di Maddalena, tutta bagnata, col rossetto stinto sulle guance, con la faccia stravolta dalla disperazione, egli bestemmiò come un sacrilego e le diede uno spintone brutale. «Andiamocene, andiamocene», disse lei senza badare a quell'atto e a quelle parole di bestemmia. Il camorrista la mandò a farsi uccidere furiosamente. Ma pioveva e egli non aveva ombrello. Il giacchettino corto lo riparava assai male e si mise sotto l'ombrello, bestemmiando fra i denti ancora. Continuavano ancora questo dialogo, egli furioso della perdita al gioco dello zecchinetto, della rissa coi compagni e della mancanza di denaro. Ella contrita, sentendo che quei maltrattamenti erano la giusta punizione del tradimento fatto a sua sorella. Tanto che, mentre egli mordeva nell'angolo delle labbra il suo mozzicone spento e seguitava a malmenarla, rinfacciandole la sua infelice esistenza, vilipendendola con ogni ingiuria, ella andava accanto a lui, pallida, poiché tutto il rossetto si era dileguato sotto la pioggia, con la camiciola intrisa di acqua che le si attaccava alle spalle e i capelli che le si incollavano sulla fronte. Andava, abbassando maternamente l'ombrello dalla sua parte, sopportando l'insulto, ebbra di dolore e di pentimento, ripetendo macchinalmente «è poco, è poco». Lassù, tutti quelli che erano entrati nel portoncino a mano destra di via Nardones erano saliti per una scaletta di un piano solo, di rimpetto alla scala principale un po' più grande. Erano entrati in un quartierino di due stanzette che si affittavano per uso di studio, come diceva il padrone di casa, visto che non vi era cucina. Ma le due stanzette erano così basse di soffitto e così scarsamente illuminate da due finestrelle, erano così freddi i pavimenti dai mattoni rossastri, così sporche le carte da parati e così unta la vernice delle porte e delle finestre, che nessun meschinissimo notaio, o avvocato povero, o medico senza clienti, o commerciante di loschi affari vi restava più di un mese. Il ciabattino che serviva da portiere e gli abitanti che passavano dalla scala grande erano dunque abituati a veder salire e scendere continuamente i visi nuovi, giovani e vecchi, uscieri e mezzani d'affari, una sfilata di persone dalle facce scialbe e dagli equivoci sguardi. Il ciabattino, stanco della sua dura giornata, gittava un'occhiata indifferente alle finestre del quartierino. Le vedeva ancora illuminate e, crollando le spalle, se ne andava a dormire in uno stambugio, una specie di sottoscala. Il cortiletto restava al buio. Il portone era socchiuso. Ancora qualcuno andava e veniva, con precauzione, dalla cosiddetta scala grande. Qualche misterioso cliente notturno del dentista, qualche cliente frettoloso che veniva a chiamare la levatrice, e costoro schiudevano senza far rumore la porta per andarsene. Era dopo la mezzanotte che gli ospiti del dottor Trifari se ne andavano dall'ammezzato, tutti insieme, silenziosi, accalcandosi uno dopo l'altro per uscir via più presto. L'ultimo si tirava dietro la porta del quartierino con un rumore di legno vecchio crocchiante. Le due stanzette che componevano lo studio ricadevano nella loro solitudine e per la città si perdevano coloro che avevano colà palpitato nell'ansietà del loro sogno. Pure là dentro erano raccolti degli uomini. E primo a giungere era stato Trifari, il padron di casa del quartierino. Aveva acceso il lume ed era penetrato nella seconda stanza ad accomodare certe cose andando e venendo col cappello un po' indietro sulla fronte. Malgrado lo scirocco, per la prima volta sulla faccia rossastra era scomparso il colore e sulla fronte qualche gocciolina di sudore appariva. Ogni tanto si fermava, quasi si pentisse di quello che andava facendo o che andava pensando, ma si rianimava da quel momento di abbattimento subito. E quando lo stridulo campanello dello studio tinnì la prima volta, il dottor Trifari ebbe un sussulto e stette incerto, quasi non osando di aprire. Pure andò. E schiudendo solo a metà il battente, con precauzione, lasciò passare Colaneri, che aveva una faccia assai torbida e tutte le spalle bagnate, poiché il piccolo e gramo ombrello gli riparava solo il capo. Scambiarono la buonasera a voce bassa. L'ex prete, dagli sguardi guardinghi dietro gli occhiali, si asciugava con un fazzoletto di dubbia bianchezza le mani bagnate, le mani grasse, flosce e biancastre, che sono speciali ai sacerdoti. Non si parlavano. Una medesima, complessa angoscia li opprimeva, tanto che la consueta verbosità meridionale ne era domata. E tutto l'eccitamento del passato, vinto da una serie di delusioni, pareva si fosse risoluto in un esaurimento di tutte le forze. Ad un tratto, levando il capo, Colaneri domandò: «Verrà?» «Sì», soffiò fra le labbra il dottore. «Non ha sospetti?» «Nessun sospetto». Una raffica di vento si ingolfò nella stanza e fu per smorzare il lume. Fu allora che Trifari andò a chiudere i vetri. Suonarono pian piano. «È lui, forse?» domandò Colaneri con un leggero tremito nella voce. «No, no», rispose Trifari. «Viene più tardi, quando ci saremo tutti. Chi lo porta?» «Cavalcanti». Suonarono nuovamente. Trifari andò ad aprire. Era l'avvocato Marzano. Il vecchietto arzillo, bonario, sorridente, ma un'improvvisa decrepitezza parea che lo avesse assalito. Il pallore del volto si era fatto giallastro, i mustacchi pepe e sale erano tutti bianchi e pioventi radi sulle labbra. Il sorriso era scomparso, come se per sempre, all'approssimarsi della morte, fosse sparito dalla sua anima il criterio buono dell'esistenza. Entrando sospirò. Era tutto bagnato. Il soprabito luccicava di goccioline d'acqua dovunque e le scarne mani tremavano. Si sedette silenzioso. Tenne il cappello sul capo, abbassato sulle orecchie, e la bocca solamente conservava l'antica consuetudine di muoversi continuamente, masticando cifre. Adesso aveva appoggiato al bastone il mento aguzzo, dove una barba incolta cresceva e si assorbiva nei suoi pensieri, senza neppure udire quello che dicevano fra loro Trifari e Colaneri. A un tratto anche lui, avendo lo stesso pensiero dominante, domandò: «Verrà?» «Verrà, sicuramente», risposero insieme gli altri due. «Non se lo immagina?» «Non si immagina niente. Questi assistiti o vedono assai o non vedono nulla. Meglio così», mormorarono gli altri due. Il dottor Trifari, udendo bussare alla porta, andò prima nella seconda stanza a prendere tre o quattro altre sedie e le collocò intorno al grezzo tavolino. Entrarono Ninetto Costa e Don Crescenzo, il tenitore di bancolotto al vicolo del nunzio. Bussarono nuovamente, pian piano, come se una timidezza indebolisse la mano che bussava. Trifari disparve ad aprire, dopo aver domandato attraverso la porta chi era, insospettito subitaneamente. Gli fu risposto: «Amici, riconobbe la voce. E i due popolani, Gaetano, il tagliatore di guanti, Michele e Lustrino, entrarono. Si cavarono il berretto, augurando la buonasera, restarono sulla soglia della stanzetta, non osando sedere innanzi a quei galantuomini. Fuori infuriava lo scirocco e la pioggia, e una grondaia carica d'acqua traboccava nel cortiletto con un forte scroscio. «Che tempaccio!» disse Ninetto Costa, passando una mano sulla fronte. «Si è aperto il cielo!» osservò Don Crescenzo, sbadigliando nervosamente. «Dottore, che ora fate?» domandò il vecchio avvocato Marzano con una vocetta tremolante di decrepitezza. «Sono le 10:05», disse il dottore, cavando un brutto orologio di nichelio, di quelli che non si potevano impegnare e che era raccomandato a un sordido laccetto nero. «Per che ora è l'appuntamento?» chiese Colaneri, fingendo l'indifferenza. «Sarebbe alle 10, ma chissà», rispose il medico, abbassando la voce, imprimendo a quello che diceva tutta la sua incertezza e tutto il suo dubbio. Bussarono alla porta. Tutti si guardarono in faccia, improvvisamente fatti pallidi e trepidanti, messi al cospetto della loro colpa. E come se dietro la porta vi fosse un grave pericolo, nessuno si mosse ad aprire. «Ci sarà», osò dire Colaneri senza levar gli occhi. «Forse», mormorò Costa, che girava convulsamente il taccuino fra le mani. E subito tutti quanti disperarono che fuori la porta vi fosse l'assistito. La stessa ombra di ferocia delusione travolse i loro visi, che si indurirono nella crudeltà del malvagio che vede sfuggire la sua preda. E l'istinto di ferocia urgeva in tutti, nei giovani e nei vecchi, nei signori e nei popolani. Le facce erano chiuse e dure, impietrite nella ferocia, e fu con un atto energico che il dottor Trifari si avviò ad aprire. Per rassicurare l'assemblea di là che l'assistito era venuto, lo salutò subito ad alta voce lui e il marchese Cavalcanti. «Buonasera, buonasera marchese. Don Pasqualino, tutti vi aspettavano». E si mise da parte per lasciarli entrare. Di là respiravano con una gioia truce. Non vi era più pericolo che l'assistito sfuggisse. E colui che parlava con gli spiriti ogni giorno e ogni notte, colui che aveva comunicazioni speciali di grazia con le anime errabonde, colui che doveva sapere tutte le verità, entrò quietamente nella stanzetta dove erano i congregati senza nulla supporre. Gittò al solito un'obliqua occhiata intorno, ma le facce dei cabalisti non gli dissero niente di nuovo. Avevano quel pallore, quello stravolgimento, quel febbrile turbamento consueto del venerdì sera. Non altro. Intorno era il silenzio in cui ogni tanto un sospiro si udiva, e guardando tutte quelle facce pallide, mute, ardenti, l'assistito ebbe un primo vaghissimo sospetto e cercò di fare il suo solito lavoro fantastico di ingarbugliamento. «Piove. Il sole uscirà a mezzanotte, ma chi porta lo scapolare della Madonna non si bagna». «Don Pasqualino, voi scherzate», disse sarcasticamente il tagliatore di guanti. L'assistito vi vibrò un'occhiata collerica. «Senza che mi guardiate come se voleste mangiarmi, Don Pasqualino. Col permesso di questi bravi signori, voi volete burlarvi di noi. E noi non siamo gente da farci burlare. Marchese, fate tacere questo stupido», mormorò l'assistito con un cenno di disprezzo. «Non tanto stupido, Don Pasqualino», disse Cavalcanti, reprimendo a stento la sua commozione. «Che volete dire, marchese?» chiese vivacemente Don Pasqualino, levandosi da sedere e facendo per andarsene. Ma Trifari, che non si era mai mosso dalle spalle dell'assistito, senza parlare, gli mise una mano sul braccio e lo costrinse a sedersi di nuovo. L'assistito piegò un minuto il capo sul petto, a meditare, e guardò obliquamente la porta. «Restate seduto, Don Pasqualino», disse lentamente Cavalcanti. «Qui dobbiamo parlare a lungo». Una lieve espressione di angoscia passò sul volto di colui che evocava gli spiriti, e ancora una volta, guardandoli a stanti, egli non vide che fisonomie dure, ansiose, indomabili nel desiderio del guadagno. Capiva adesso confusamente. Gaetano, il tagliatore di guanti, non è uno stupido quando dice che voi vi burlate di noi. Quello che ci state facendo da 3 anni a questa parte pare una burla. Sono 3 anni, capite, che voi ci andate ripetendo le cose più strampalate, con la scusa che ve lo dice lo spirito. 3 anni che ci fate giocare l'osso del collo con queste vostre stramperie e ognuno di noi non solo non ha mai guadagnato niente, ma ha buttato la sua fortuna dietro le vostre chiacchiere ed è pieno di guai, alcuni dei quali irreparabili. Coscienza ne avete, don Pasqualino? Voi ci avete rovinati. Rovinati! Rovinati! Gridò un coro di voci straziate. Spesso il parlatore con gli spiriti aveva udito queste lamentazioni massime negli ultimi tempi, ma la fiducia era ricomparsa subito negli animi dei suoi affiliati. Adesso lo intendeva, non ci credevano più. Pure, nascondendo la sua paura, tentò di discutere. «Non è colpa mia, la fede vi manca. Frottole!» gridò il vecchio esasperato, mentre gli altri tumultuavano contro l'assistito che ripeteva loro l'eterna ragione della delusione. Frottole! Come manca la fede a noi che abbiamo creduto in voi come si crede in Gesù Cristo? Manca la fede quando, per premiarvi delle troppe parole che ci avete detto, vi abbiamo pagato profumatamente? Avete incassato migliaia di lire in questi 3 anni, non lo negate. Non abbiamo fede noi che abbiamo fatto dire messe, orazioni, rosari, noi che ci siamo inginocchiati, ci siamo battuti il petto chiedendo al Signore la grazia? Non abbiamo fede quando la dobbiamo avere per forza, capite? Altrimenti lo sperpero, lo sciupio del danaro, l'infelicità nostra e quella delle nostre famiglie sarebbero altrettanti delitti? Non abbiamo fede quando voi siete stato il nostro Dio per 3 anni. E ci avete ingannati e non vi abbiamo detto niente, abbiamo seguitato a credere in voi e ci avete tolto tutto, tutto? Tutto ci avete tolto, urlò l'assemblea. Voi mi offendete. Basta così, disse risolutamente l'assistito levandosi. Io me ne vado. Buonasera. Voi non uscirete di qui, urlò il marchese Cavalcanti, giunto al colmo del furore. È vero che non uscirà di qui? Domandò all'assemblea dei cabalisti. «No! No! No!» urlò ferocemente la congrega di quei pazzi feroci. L'assistito aveva compreso. Un mortale lividore gli coprì le guance pallide e scarne. Lo sguardo smarrito errò intorno a una ricerca disperata di fuga, ma i truci cabalisti si erano levati e gli si erano stretti addosso in un breve cerchio. Alcuni di loro erano pallidissimi, quasi reprimessero una forte emozione. Altri erano rossi di collera e negli occhi di tutti l'assistito lesse la medesima implacabile crudeltà. «Io voglio andarmene», disse lui sottovoce, con quel tono roco che dava tanta misteriosa attrazione alla sua voce. «Nessuno di noi vi vorrebbe trattenere, don Pasqualino», rispose con ossequiosa ironia il marchese Cavalcanti, «se non avessimo bisogno di voi». «Se non ci date i numeri, di qua non uscite!» finì gridando, preso da un impeto di furore. «I numeri veri!» disse freddamente Cavalcanti. «Queste cose che ci dite non le crediamo. Cioè, per uno scrupolo, noi giocheremo i numeri che rispondono alla montagna, alla marina e alle camelie fiorite. Ma altri debbono essere i numeri veri. E così, aspettandoli, noi giocheremo questi 3, ma vi terremo chiuso qua dentro». «Sino a quando?» chiese lui precipitosamente. «Sino a quando i vostri numeri saranno usciti?» ribatté il marchese duramente. «Oddio!» disse l'assistito piano piano come un soffio. «Capite, don Pasqualino? Questi signori vogliono avere una garanzia e vi vogliono tenere impegno», spiegò don Crescenzo, il tenitore del banco del lotto, volendo legittimare il sequestro. «E a voi che fa? Che fatica vi costa dire la verità? Se li avete tenuti in asso, finora è il tempo di parlare sul serio, don Pasqualino. Questi signori hanno ragione, lo so io, di essere esasperati. Parlate, don Pasqualino, mandateci via contenti. Voi rimarrete qui fino a domani alle 5 e appena fatta l'estrazione vi verremo a prendere in carrozza per una scampagnata. Su, su, fate quel che dovete fare». «Non posso», disse l'assistito aprendo le braccia. «Non mentire. Voi potete e non volete. Gli spiriti vi obbediscono», disse Colaneri scattando in un impeto di furore. «Diteli questa sera, è meglio per voi», mormorò Gaetano, il tagliatore di guanti, con un malvagio tono di voce. Levatevi questa preoccupazione, consigliò fraternamente Ninetto Costa. La verità, balbettò il vecchio avvocato Marzano. Non posso, disse ancora l'assistito guardando le finestre e le porte. Allora i cabalisti, a un cenno del marchese Cavalcanti, si riunirono nel vano della finestra. Presso l'assistito restò soltanto Trifari, dalla feroce faccia minacciosa, che gli aveva posta la mano grassa, corta, coperta di pelame rossiccio sulla spalla. I cabalisti confabularono fra loro a lungo, discutevano in cerchio, tutte le teste riunite parlandosi nel volto. Poi, decisi, ritornarono. Questi signori dicono che sono fermi nella loro intenzione, anzi, nel loro diritto di avere i numeri, dopo i tanti sacrifici che hanno fatti, parlò freddamente il marchese Cavalcanti. E che quindi Don Pasqualino resterà qui, chiuso, sino a che non si sarà deciso di far paghi i nostri giusti desideri. Di qui non si può andar via. D'altronde, il dottor Trifari, che non ha paura di niente, resterà in compagnia di Don Pasqualino. Fare del chiasso sarebbe inutile, tanto i vicini non udrebbero. E se per caso Don Pasqualino volesse ricorrere alle autorità per farsi ragione, noi teniamo pronta una querela di truffa con testimoni e documenti da mandare in carcere 20 assistiti. È meglio dunque chinare la testa per questa volta e cercare di scamparsi dando i numeri veri. Noi siamo fermi fino a che non avremo guadagnato. Don Pasqualino non esce. Il dottor Trifari si sacrificherà a tenergli compagnia. In quell'altra stanza vi è da dormire per due e da mangiare per vari giorni. Fra questa notte e domani uno di noi per turno verrà, ogni 4 ore, a vedere se Don Pasqualino si è deciso. Speriamo che si decida presto. Voi volete farmi morire, disse l'assistito con un'angelica rassegnazione. Voi potete liberarvi se volete. Vi auguriamo la buona nottata, conchiuse implacabile il marchese Cavalcanti. E i 7 sciagurati cabalisti passarono davanti all'assistito augurandogli sardonicamente la buonanotte. Fuori anche la pioggia era cessata. Dentro la lunga e tetra veglia cominciava. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.